partire o non partire. Questo è il dilemma di molte coppie che vorrebbero effettuare la diagnosi preimpianto e sono in attesa di sapere se fra un po' sarà possibile anche in Italia. Fra loro c'è Anna, nome di fantasia per proteggere la privacy, 33enne che vive a Roma. Ci è stata consigliata dopo aver fatto delle analisi genetiche, dopo aver scoperto questa grave malattia genetica di mio marito. Quindi abbiamo contattato questo medico di Bruxelles. Abbiamo fatto già un primo tentativo che non è andato bene e quindi dobbiamo ripetere il secondo, ma col fatto dei costi molto alti stiamo aspettando per poi fare un nuovo tentativo. Tutto dipende dalle nuove linee guida di applicazione della legge 40 che dovranno essere stabilite dal Ministero della Salute nei prossimi giorni. È possibile infatti che le nuove regole tengano conto della sentenza del TAR del Lazio che nei giorni scorsi ha annullato il divieto di diagnosi preimpianto. Le donne che vogliono effettuare tale esame dunque sperano in un cambiamento di rotta perché, come sottolinea Anna, andare all'estero è una cosa stressante psicologicamente e fisicamente. Si fa una preparazione in Italia e il medico poi ti chiama 2 giorni prima e ti dice adesso puoi partire perché è il momento di farla, quindi organizzare un viaggio all'ultimo momento, la pressione che c'è, quindi insomma farlo in Italia è un'altra cosa. Chi si oppone alla diagnosi preimpianto parla di rischio di selezione degli embrioni e ricorda che la diagnosi della fecondazione assistita causa la morte dell'8% degli embrioni contro i 5 casi su 1000 di aborto provocati dall'amniocentesi. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore.